Cortesissimo, la ospitalità cordiale. Un ringraziamento vivissimo, direi, permettetemi anche all'ottimo Mazzolini per la pazienza con la quale ci ha accompagnato in queste liete ore. Io devo cominciare con una sorta di confessione. Io mi sento un tantino spiazzato trovandomi tra il professor Padovani, che con la sua versatilità e con la sua sensibilità storica ci ha richiamato e sottolineato con estrema chiarezza e direi in modo talvolta trascinante, ci ha richiamato alla perenne attualità di questi problemi. Dall'altro il professor Pavarini, penitenziarista bolognese, specifico, competente quindi specifico della materia, che mi auguro oggi pomeriggio darà il suo contributo. L'oggetto della mia conversazione sono le linee di tendenza nella attuale politica delle misure penali. Il mio scopo, il mio tentativo sarebbe quello di riportare la vostra attenzione sulle attuali problematiche del diritto penale. E in questo senso mi auguro di non pregiudicare troppo il rapporto tra storia e diritto vigente, cui all'inizio alludeva il professor Prodi, rapporto che è già stato così chiaramente ed esaurientemente impostato dall'amico Padovani. La attuale politica delle misure penali. Direi che possiamo prendere le mosse da un dato estremamente generico ma estremamente significativo. Il rinnovato crescente interesse da parte dei penalisti, di giuristi, cioè di studiosi di formazione prettamente giuridica, diritto positivo, il rinnovato interesse di questi studiosi alle problematiche della politica criminale. Interesse di questi ultimi anni, che si è manifestato e accentuato in questi ultimi anni. Questo dato può essere significativo da un lato di un notevole mutamento del tradizionale modo di concepire da parte del giurista il proprio ruolo sociale, ed è probabile che a questo mutato modo di concepire il proprio ruolo corrisponda una sottostante trasformazione in corso della ideologia dominante nel ceto dei giuristi di diritto positivo, dei cultori del diritto positivo. Questo rinnovato interesse per la politica criminale è probabilmente anche il senso di un accentuato, diffuso senso di insoddisfazione che anche prima di tutto i tecnici hanno per l'attuale sistema penale. Ciò premesso, si può tentare di sintetizzare in modo approssimativo una definizione di politica criminale come l'attività o l'insieme delle attività promananti dallo Stato o comunque disciplinate dallo Stato e aventi come loro scopo quello di opporsi al crimine. Questa definizione ha un carattere sintetico e formale ad un tempo. Sintetico perché, sottoponendo ad analisi questa definizione, si coglie un profilo finalistico costituito dallo scopo, lo scopo della politica criminale è quello di opporsi al crimine, e un profilo strumentale che è costituito dai mezzi di politica criminale che sono oggetto volta in volta di scelta legislativa. La definizione ha un significato però formale, in quanto non si pronuncia su quali fatti debbano essere considerati criminosi, non dice, cioè qual, non dà una definizione contentistica sostanziale di reato, né si pronuncia sul criterio che deve presiedere alla scelta dei mezzi di lotta contro la criminalità. Posto tutto ciò, e direi, arrivando subito a un profilo della politica criminale, quella che si suole chiamare come politica penale, cioè la politica che si basa, che si serve quanto agli strumenti, quanto ai mezzi, delle leggi penali, dello strumento giuridico, formalmente giuridico. A sua volta la politica penale, la politica cioè che si basa, ripeto, sullo strumento formalmente giuridico, sulle leggi penali, si può distinguere in due grandi branche. Si può parlare forse di una politica dell'illecito penale, da un lato, e di una politica delle misure penali, dall'altro. La distinzione ovviamente non esclude una interconnessione strettissima. Tuttavia, forse è possibile anche per esigenze di chiarezza. Il legislatore, nel momento in cui traduce le sue scelte di politica penale, può privilegiare il settore, il momento della struttura dell'illecito, cioè il modo di configurazione del fatto criminoso, o può privilegiare il piano, il momento delle sanzioni, delle misure penali. Limitiamo, direi, la nostra attenzione necessariamente alla politica delle misure penali, che è poi anche la regina della politica penale, perché in fondo sono proprio le misure penali, gli strumenti ultimi con cui si fronteggia la criminalità. Fatte queste necessarie premesse, che, scusate, ma mi sembrano indispensabili, così come l'analisi storica, mi sembrano indispensabili ad una razionalizzazione del problema della politica criminale. Fatte queste necessarie premesse, va detto che le variabili della politica delle misure penali sono essenzialmente due. Da un lato, la prima variabile è costituita dai caratteri generali propri della criminalità in un dato periodo storico, essendo chiaro che la risposta dell'ordinamento, del legislatore alla criminalità, e quindi la politica delle misure penali in particolare, varia col variare della qualità e della quantità del fenomeno criminale. La seconda variabile è costituita dal fondamento ideologico-culturale su cui si basa il ricorso alle misure penali per fronteggiare il fenomeno della criminalità. Caratteri della criminalità da un lato, quindi, e fondamento ideologico-culturale dell'intervento penale dall'altro, concorrono entrambi ad orientare la funzione che viene attribuita alle misure penali in dati periodi storici. Concorrono ad orientare la funzione, o forse meglio, a sottolineare la funzione delle misure, che alle misure penali viene privilegiata di volta in volta. La funzione delle misure penali noi non la troviamo scritta nelle leggi. La funzione delle misure penali è il presupposto, la matrice da cui muove il legislatore per formulare la disciplina formale, tecnica delle misure. La funzione delle misure penali informa quindi la loro concreta disciplina giuridica. Le tendenze della politica delle misure penali non sono dunque date da altro che dagli atteggiamenti assunti dal legislatore nel corso di un dato arco temporale dagli atteggiamenti assunti dal legislatore sulla funzione o le funzioni delle misure penali. Riprendendo dunque il discorso sulle due variabili che condizionano la politica delle misure penali, inizierei rapidissimamente, anche perché non ne ho le conoscenze sufficienti per fare una trattazione analitica approfondita, riprenderei dalla variabile costituita dai caratteri generali della criminalità. Della criminalità attuale. Questi caratteri sono di ordine qualitativo e di ordine quantitativo. Dal punto di vista qualitativo, conviene muovere da una posizione scientifica secondo la quale la delinquenza non sarebbe definibile in base ai fini che essa si propone, ma in base ai mezzi che essa impiega per perseguire certi fini. I mezzi sono riconducibili essenzialmente ai due fondamentali della violenza e della frode. Ci sarebbe quindi una delinquenza essenzialmente una delinquenza fraudolenta ed una delinquenza violenta. Nei tempi attuali si può dire, a proposito della delinquenza fraudolenta, che suo carattere essenziale è quello di essere penetrata e grandemente diffusa nelle istituzioni politiche ed economiche dello Stato e del parastato, dando luogo a fenomeni di corruzione imponenti e diffusi a tutti i livelli. Questo tipo di delinquenza fraudolenta, caratterizzata da questa diffusione in certe istituzioni centrali dell'organizzazione dello Stato o del parastato, ingenera o contribuisce perlomeno ad ingenerare nella compagine sociale un atteggiamento di infedeltà nei confronti delle istituzioni, un senso di noncuranza della legge, una indifferenza verso ogni dovere di socialità. Questi atteggiamenti che si diffondono in strati della società che per le loro condizioni non sono inseriti nelle istituzioni sociali, questi atteggiamenti possono tradursi in manifestazioni antisociali a base violenta. C'è quindi una stretta interconnessione, c'è probabilmente una stretta interconnessione tra la violenza fraudolenta dei tempi odierni, caratterizzata dal suo carattere istituzionale, per così dire, e la delinquenza violenta, che è un frutto indiretto della prima. La delinquenza violenta dei tempi attuali si caratterizza per due sostanziali aspetti: la sua politicizzazione, e qui basta fare un cenno al fenomeno del terrorismo, e la sua gratuità. La delinquenza violenta dei nostri giorni è caratterizzata, in molti suoi aspetti, dall'essere fine a se stessa. È una violenza gratuita, oppure è una violenza che si pone come espressione simbolica di un senso di ribellione derivante probabilmente da frustrazione. La delinquenza di questi tempi attuali presenta, proprio per i caratteri che la contrassegnano, un elevato grado di pericolosità. Sia per la assoluta indifferenza che essa manifesta verso le vittime dei reati e verso il rispetto dovuto alla vita umana, sia perché è solitamente espressione di personalità profondamente insicure e deboli e quindi estremamente pericolose. Sui caratteri quantitativi della criminalità dei tempi attuali è inutile tediarvi con indicazioni statistiche, che non farebbero altro che confermare quella consapevolezza che è diffusa in tutti, operatori o no del diritto, della imponenza quantitativa della nuova della delinquenza attuale. Riassunta così la prima variabile, quella sui caratteri della delinquenza, passerei alla seconda, forse anche più interessante, quella del fondamento ideologico culturale, su questo punto già ha fatto dei precisi cenni l'amico Padovani, quella del fondamento ideologico culturale su cui si giustifica, si fonda il ricorso alle misure penali. Direi che a questo proposito sono da distinguere fondamentalmente due posizioni. Secondo una prima radicale posizione di pensiero, si finisce in definitiva per togliere il fondamento di legittimazione allo stesso intervento penale, muovendo infatti dalla duplice premessa di un rifiuto globale della attuale società ritenuta strutturalmente ingiusta ed alienante, e dalla seconda premessa della considerazione di un diritto penale concepito quale strumento per consentire la sopravvivenza di questo tipo di società, è logico concludere per il rifiuto di qualunque fondamento, di qualunque fonte di legittimazione alle misure penali. Su questa posizione di pensiero, diffusa anche in Italia e autorevolmente sostenuta, direi che si possono fare due osservazioni. La prima è che non tocca in questa sede, non è il caso di approfondire il discorso, perché è evidente come una posizione di pensiero di questo tipo postula, presuppone una discussione sulla definizione sostanziale del reato, del crimine. Si tratta di confrontarsi con il perenne, angoscioso problema della definizione sostanziale del reato. In secondo luogo si può osservare che è forse probabile, possibile, distinguere nella criminalità tra costanti e variabili. Ci sono cioè delle forme della criminalità, dei fatti criminosi, che sono delle costanti storiche, e delle forme della criminalità che sono delle variabili. Sulle seconde tutto si può dire, sulle prime non si può probabilmente che prenderne atto, che esistono delle forme di criminalità costanti nella storia, che per il solo fatto di esistere legittimano l'intervento delle misure penali. La seconda posizione di pensiero, cioè quella che non giunge ad un radicale rifiuto di legittimazione del diritto penale, delle misure penali, si può schematicamente, distinguere in tre diversi filoni culturali, ricorrenti ma che hanno avuto più spiccata manifestazione in diversi altrettanti periodi storici. Il primo filone culturale. In una concezione, per così dire, sacrale del diritto penale, in cui i precetti penali rispecchiano un ordine trascendente, in cui quindi siamo in perfetta congruenza, in perfetta sintonia con le concezioni dello Stato teocratico, in una concezione sacrale, dicevo, in cui i precetti penali rispecchiano un superiore ordine trascendente, o comunque, se non trascendente, promanano da uno Stato concepito quale ente supremo, anche se immanente alla storia, in una visione di questo genere del diritto penale è facile concludere che la sanzione criminale si legittima dal punto di vista ideologico per la sua natura di castigo e per la sua funzione punitiva di un atto di ribellione della volontà individuale alla volontà dell'ente supremo, sia esso trascendente o immanente. Questa idea del castigo, della pena come castigo, non è però estranea, totalmente estranea, né allo Stato laico né allo Stato liberal-democratico. Certo, in uno Stato laico, in uno Stato liberal-democratico, l'idea del castigo non costituisce più il fondamento ideologico su cui si fonda, si giustifica, si legittima l'intervento criminale. Ma si secolarizza, per così dire, l'idea del castigo, diventando o uno strumento o un limite all'intervento penale ideologicamente fondato su altre basi. Su quali altre basi? Ecco gli altri due possibili fondamenti ideologici. In una concezione che direi, ma qui mi rendo conto come la classificazione è estremamente approssimativa e schematica, in una prima concezione che direi di tipo utilitaristico, razionalistico, in una prima concezione di questo tipo, che è poi la concezione che forse ha contrassegnato il periodo illuministico del diritto penale, in cui si realizza la separazione piena tra mondo dei valori spirituali e mondo dei valori sociali, il fine del diritto penale diventa quello della difesa della società dal crimine e l'intervento penale si giustifica prevalentemente sulla funzione di prevenzione generale, quella che noi chiamiamo prevenzione generale del reato, cioè la funzione di dissuasione esercitata dalla sanzione penale nei confronti della generalità dei consociati. Alla base di questa concezione c'è una visione contrattualistica, il patto per il quale, in base al quale ciascuno rinuncia potenzialmente ad una porzione della propria libertà, legittimando così l'intervento penale dello Stato. In una concezione utilitaristico-positivistica del diritto penale, concezione che si manifestò essenzialmente nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, a seguito dei progressi scientifici e del conseguente ottimismo positivistico, l'intervento penale trova un fondamento ideologico diverso. Affiora l'ideologia del trattamento risocializzante. L'accento si sposta dal fatto criminoso all'uomo delinquente. Ecco, dalla classificazione oggettiva si passa alla classificazione soggettiva. Si ritiene di avere scoperto il modo, o si cerca di scoprire il modo, di migliorare il delinquente, di migliorare la personalità del delinquente, con la conseguenza che l'intervento penale realizza ad un tempo il bene della società, ma anche il bene del reo. In questo quadro, come diceva poc'anzi Padovani, la pena detentiva cessa di essere la pena unica su cui far leva. I tre fondamenti ideologici così individuati, concezione sacrale, concezione utilitaristico-razionalistica, concezione utilitaristico-positivistica, i tre fondamenti ideologici della politica delle misure penali sono solitamente compresenti nella concreta politica penale dei vari paesi. Oramai i mutamenti nella tendenza della moderna politica penale si risolvono, perlomeno per quel che ci interessa qui, in spostamenti d'accento dall'uno all'altro di quei tre fondamenti. Questi spostamenti d'accento diventano difficilmente controllabili in epoche di crisi sociali e di crisi degli altri strumenti di controllo sociale diversi da quello penale. In ogni caso, però, la politica delle misure penali trova oggi nel nostro ordinamento dei limiti, che sono dei limiti prima di tutto costituzionali e poi, in secondo luogo, dei limiti ovvi di fatto. I limiti costituzionali, cioè quelli che discendono dalla carta costituzionale, impediscono l'esasperazione, possibile soprattutto in certi periodi storici, di talune tendenze di politica penale a danno di un equilibrato ed ormai irrinunciabile rapporto tra i tre fondamenti ideologici. I limiti costituzionali impediscono, hanno la funzione perlomeno, di impedire la degradazione del diritto penale a strumento di oppressione politica. Così, rispetto per esempio alla concezione sacrale del diritto penale, operano come limiti costituzionali il principio della laicità dello Stato, il quale garantisce ormai oggi la separazione tra sfera degli interessi statali e sfera dei valori trascendenti, il principio del fondamento democratico del potere statale ancora, il quale esclude che il potere dello Stato si fondi su una base diversa dal consenso popolare. Intervengono poi a limitare una possibile degradazione della prima fonte legittimatrice del diritto penale, intervengono poi principi più squisitamente penalistici, quali ad esempio e soprattutto il principio di offensività, il quale esige che il reato sia necessariamente un fatto offensivo di interessi sociali preesistenti alla legge stessa e quindi esclude che la norma penale, il diritto penale funzioni come, e la sanzione penale funzioni come strumento per colpire la semplice ribellione della volontà individuale alla volontà superiore della legge. Limiti costituzionali operano anche rispetto al fondamento alla funzione di prevenzione generale. Operano in questa direzione il principio di proporzione, come vedete sono tutte parole che già sono riecheggiate nelle relazioni di Padovani, confermando così questa perennità, direi, di questi problemi. Il principio di proporzione tra gravità del reato e gravità della sanzione, principio che si oppone ad un abuso terroristico della intimidazione penale. In secondo luogo operano i principi di personalità della responsabilità penale e di colpevolezza, in base al quale sono oggi vietate forme di responsabilità penale per fatto altrui o forme di responsabilità senza colpa, senza colpevolezza, che invece sono perfettamente coerenti con una funzione di esclusiva prevenzione generale attribuita alla sanzione penale. Limiti alla possibile esasperazione della terza funzione dell'intervento penale, cioè alla funzione risocializzativa della sanzione. Limite fondamentale in questo senso è il riconoscimento costituzionale della dignità dell'uomo come essere dotato del senso della libertà morale e di coscienza, così da precludere l'utilizzazione di misure penali che si possano risolvere in strumenti di manipolazione della personalità. Sui limiti di fatto della politica penale non è il caso di soffermarsi. I limiti di fatto vanno dalle disponibilità economiche presenti in un paese alla esistenza di strutture e attrezzature adeguate all'atteggiamento sociale generalmente diffuso. La politica, non è possibile avere un quadro sufficientemente chiaro e razionale delle tendenze di politica penale senza distinguere rapidissimamente i tipi, le grandi categorie di misure penali che ormai costituiscono patrimonio del pensiero penalistico. A questo proposito ricorre la perenne contrapposizione tra i concetti di libertà morale e i concetti di necessità deterministica. Se si muove dalla premessa della libertà morale dell'uomo, ne viene prima di tutto una necessaria e insopprimibile distinzione fra soggetti capaci di intendere, di volere, maturi, sani e maturi di menti, e soggetti incapaci. Solo i primi sarebbero realmente liberi, i secondi, rispetto ai secondi si dovrebbero immaginare tipi di intervento penale diversi dalla pena. Coerente con la premessa della libertà morale, coerenti con la premessa della libertà morale sono le categorie logico-giuridiche della responsabilità, della colpevolezza e della pena castigo, della pena concepita anche come un castigo. In un sistema penale, dunque, che non rifiuti la categoria della libertà morale, è inevitabile che una certa parte delle misure penali abbia natura punitiva. Se si muove invece dalla premessa del determinismo, della necessità deterministica, il sistema penale si atteggia in modo diverso. La distinzione tra soggetti capaci ed incapaci non ha più ragione di esistere. La categoria della responsabilità assume un'altra fisionomia, non è più una responsabilità morale, ma è una responsabilità o sociale o legale, come si è detto. La misura penale non assume più una natura anche di castigo, ma diventa una misura di profilassi sociale. In questo quadro è perfettamente coerente immaginare un intervento penale che sia svincolato dalla commissione di un fatto illecito. È perfettamente coerente immaginare la presenza di strumenti di profilassi che mirano a contenere, a neutralizzare la pericolosità del soggetto a prescindere dalla commissione o meno di un fatto criminoso. Sulla base di questa dialettica, di questa contrapposizione tra libertà morale e necessità deterministica, si fonda la distinzione tra sistemi cosiddetti monistici e sistemi dualistici, intendendo per sistemi monistici quelli che adottano un solo tipo di misura penale, sia esso la sanzione intesa come prevalentemente come sanzione retributiva, come sanzione castigo, sia esso all'estremo opposto, il sistema penale che adotta un tipo di intervento di natura esclusivamente di profilassi sociale, sia esso infine un sistema monistico intermedio che riesca a accumulare in un unico tipo, in un'unica categoria di sanzione, i caratteri sia della pena castigo sia della misura di profilassi. Sistemi dualistici, per contro, sono quei sistemi che adottano contemporaneamente misure penali a carattere punitivo e misure penali che hanno un carattere di profilassi, che quindi sistemi che non scelgono nella contrapposizione tra libertà morale e necessità deterministica, non scelgono ma non rifiutano nemmeno nessuna delle due prospettive. In Italia la tendenza attuale, almeno sul piano legislativo, si può dire che è nel senso di mantenere al sistema il suo carattere dualistico, anche se non mancano delle aperture, delle proposte di modifica per rendere maggiormente flessibile il sistema. A questo proposito, le aperture che si possono segnalare sono di due tipi. In una prima direzione si cerca di evitare la sovrapposizione della misura penale a carattere punitivo con la misura penale a carattere preventivo. Sono tendenze presenti soprattutto a livello di progetti di riforma. In una seconda direzione, più interessante, si cerca di inventare, di creare delle sanzioni a contenuto unitario, cioè delle sanzioni che riescano a cumulare entrambe le funzioni, la funzione di prevenzione mediante risocializzazione del reo e la funzione di prevenzione generale. Un tipico esempio di questa tendenza può essere forse indicato nella nuova misura introdotta abbastanza di recente in Italia dell'affidamento in prova al servizio sociale, misura che da un lato presuppone una parziale esecuzione della pena detentiva, dall'altro però consiste in una sorta di trattamento effettuato in libertà. Sempre in questa direzione, cioè nel tentativo di raggiungere di inventare delle sanzioni unitarie che cumulino questa doppia natura, possono essere segnalate tendenze che ancora non hanno trovato peraltro sbocchi legislativi concreti a fare ricorso a sanzioni di natura interdittiva, che sembrano poter cumulare la funzione tanto punitivo-intimidativa quanto dissuasivo-neutralizzatrice. Anche alcune sanzioni di natura patrimoniale vengono recuperate in questa chiave. Per esempio sanzioni tipo la confisca sono oggi oggetto di una profonda rivalutazione perché sembrano presentare il doppio carattere sia punitivo sia preventivo. Le tendenze attuali nella politica penale italiana possono essere distinte a seconda che si tratti di una politica di, per così dire, di invenzione di nuove misure penali, cioè una politica di creazione di nuove tipologie sanzionatorie diverse dalla pena tradizionale, essenzialmente dalla pena detentiva, oppure si tratti di una politica penale, per così dire, di gestione delle misure penali esistenti, essenzialmente la pena detentiva. A sua volta, la politica penale di gestione delle misure penali esistenti può distinguersi in una politica legislativa, cioè che è monopolio del legislatore, e in una politica, almeno entro certi limiti, giudiziaria, cioè praticata dal giudice. La politica di invenzione di nuove tipologie sanzionatorie, più brevemente la politica delle misure alternative alla detenzione, nasce da quel senso di profonda insoddisfazione per la pena detentiva che ormai accompagna da secoli la storia del pensiero penalistico. Da secoli, e si pone anche tutto sommato come prosecuzione di quella tendenza, pur essa costante, alla umanizzazione dell'intervento penale. La politica delle misure alternative può probabilmente distinguersi in due fasi. Una prima fase è caratterizzata da i maggiori entusiasmi per gli studi criminologici è caratterizzata altresì dalla grande speranza rieducativa. Le misure penali alternative sono concepite come strumenti di risocializzazione del reo. In questo quadro la politica delle misure alternative tende a porsi come politica di alternativa sostanzialmente globale alla detenzione, cioè corrisponde ad un rifiuto globale della detenzione. Si ambisce a abbandonare, a sostituire alla pena detentiva altro tipo di sanzioni aventi contenuto risocializzativo o comunque a ristrutturare il sistema in questa direzione. Il punto di maggior fulgore in Italia, l'acme di questa tendenza di politica penale in Italia, è segnato dalla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Siamo nel 1975. La seconda fase della politica delle misure alternative è successiva anche cronologicamente ed è caratterizzata da un rinnovato interesse, da una rinnovata sensibilità per le esigenze della prevenzione generale. Ed è caratterizzata altresì da un diffuso ripensamento sulla praticabilità della scelta rieducativa. In questo quadro interessa notare che non è che viene abbandonata integralmente la politica delle misure alternative, ma la politica delle misure alternative subisce un significativo mutamento d'accento, nel senso che le misure alternative alla detenzione sono concepite anche come sanzioni operanti in funzione punitiva o general preventiva, cioè l'alternativa alla detenzione non è più in un'unica direzione, in un unico senso, nel senso della risocializzazione, ma si comincia a concepire una strada alternativa alla detenzione in chiave pur sempre di prevenzione generale e con caratteri punitivi. A questo punto le misure alternative non si pongono più come alternative alla detenzione in senso globale. La detenzione rimane un male, una sanzione caratterizzata dai suoi effetti nefasti, ma entro certi limiti ineliminabili. Il problema dell'alternativa si concentra soprattutto sulle pene detentive di breve durata. In questo quadro si arriva addirittura a, da parte di certi autori, a sottolineare a un recupero della pena detentiva, anche se breve o soprattutto brevissima, in chiave di trattamento shock, di shock terapia, come una specie di sferzata sanzionatoria che dovrebbe avere anch'essa un carattere, un'efficacia estremamente dissuasiva e non avrebbe dall'altra parte i tradizionali, classici inconvenienti collegati alla pena detentiva di una certa durata. Quel che più interessa però segnalare è che in questo quadro In questa seconda fase della politica delle misure alternative si assiste ad un straordinario rilancio della pena pecuniaria. La pena pecuniaria assume un ruolo centrale come alternativa alla detenzione. Ovviamente, non disconosce, anzi, sottolineando della pena pecuniaria sì i vantaggi che essa ha rispetto alla pena detentiva, ma ovviamente non disconoscendone la funzione di general preventiva e in parte anche punitiva. In questa seconda fase della politica delle misure alternative si inseriscono poi una serie di tendenze abbastanza vive attuali a livello legislativo e di progetto e di progetti che si sbizzarriscono in una sorta di sforzo di fantasia creativa di nuove sanzioni, tutte caratterizzate dalla persistenza, dalla permanenza della funzione general preventiva e da una natura punitiva, una serie di sanzioni dalla libertà, dalla semidetenzione, la semilibertà, la detenzione di fine settimana, la libertà controllata, le interdizioni e via, tutte sanzioni che presentano una serie di notevoli difficoltà pratiche ed applicative tali da averle mantenute ancora a livello di progetti, di proposte, senza che nessuna di esse sia andata in porto. La politica di gestione delle misure penali esistenti, e cioè essenzialmente della pena detentiva. In estrema sintesi, si può dire che le tendenze legislative per quanto riguarda la politica di gestione delle misure penali esistenti sono essenzialmente due. La prima tendenza, che corrisponde anch'essa a una prima fase caratteristica del periodo 1974-1975, la prima fase è caratterizzata da interventi legislativi di estrema importanza nel sistema penale che hanno comportato come risultati l'attenuazione della risposta sanzionatoria da un lato e un notevolissimo potenziamento della discrezionalità del giudice, del potere discrezionale del giudice. Questa tendenza, influenzata decisamente dal clima politico-sociale presente in Italia negli anni del 1974, nella prima metà degli anni 70, questa prima tendenza sembra da un lato riflettere il momento della maggiore eclissi della idea intimidativa. A questa eclissi è perfettamente coerente la esigenza di una attenuazione della risposta sanzionatoria, così come si ebbe a seguito degli interventi legislativi del 74. In secondo luogo, questa tendenza legislativa segna per contro il momento di massimo fulgore della idea preventivo, rieducativa, risocializzante che si ebbe in Italia. E infatti di massima manifestazione dell'ideologia della risocializzazione è perfettamente coerente il potenziamento del potere discrezionale del giudice, potenziamento che dovrebbe, perlomeno in teoria, costituire strumento indispensabile per garantire quella flessibilità all'intervento sanzionatorio necessario ai fini risocializzativi. La realtà è che probabilmente questa tendenza legislativa manifestatasi, riassuntasi negli interventi legislativi del 74 e 75 e che portarono da un lato all'attenuazione della risposta sanzionatoria, al potenziamento della discrezionalità del giudice. La realtà è che questi interventi solo in apparenza segnano il fulgore della idea risocializzativa. La realtà è probabilmente un'altra, dovuta alla contingenza di situazioni politiche particolari. Ciò è confermato sia dall'occasio legis, dall'occasione che dette luogo a questi interventi legislativi, sia anche dall'insufficienza di questi strumenti approntati nel 74-75 rispetto ai fini che apparentemente quegli strumenti avrebbero dovuto perseguire. Si apre così, nel 74-75, dopo il 74-75, la seconda fase della politica di gestione delle misure penali. La seconda fase è caratterizzata da due motivi fondamentali esattamente opposti a quelli che contrassegnavano gli interventi legislativi della prima metà degli anni 70. I motivi dominanti di questa seconda fase della politica delle misure penali, di gestione delle misure penali, è il rilancio dell'idea intimidativa e la tendenza alla limitazione del potere discrezionale del giudice. In definitiva, sono due motivi simmetricamente opposti a quelli delle riforme antecedenti. Queste tendenze si colgono, direi, in modo macroscopico, in modo facilissimo, costante processo di inasprimento delle sanzioni penali in cui si sono mosse le riforme legislative degli ultimi anni. Estremamente significativo, direi, di questa tendenza è poi la comparsa, per talune ipotesi di reato, della pena detentiva fissa, che non era più presente, Padovani mi darà una consulenza, non so, sarà più di un secolo direi che non era presente nei nostri ordinamenti. La pena detentiva fissa, in misura fissa, predeterminata, che segnala da un lato il rilancio dell'idea intimidativa, perché direi è naturale, alla misura fissa della pena è congeniale una maggiore efficacia intimidativa, ma dall'altro e soprattutto segnala la volontà, la chiara, univoca volontà del legislatore di intervenire a comprimere il potere discrezionale del giudice. In questa seconda direzione, cioè nel senso di una compressione del potere discrezionale del giudice, sono numerose anche altre modifiche legislative recenti, però di una estrema complicatezza tecnica. La politica di gestione delle misure penali, la politica legislativa delle misure di gestione penali, delle misure penali, è caratterizzata quindi, come ho finito di dire, da queste due motivi fondamentali: rilancio dell'idea intimidativa, limitazione dei poteri discrezionali del giudice. Ma a proposito della politica di gestione delle misure penali esistenti e quindi della pena detentiva essenzialmente, si pone oggi il grosso problema, il grosso interrogativo della politica giudiziaria di gestione di queste misure. La politica, cioè, fatta non più attraverso l'atto legislativo, non più dal legislatore, ma fatta dal giudice nell'esercizio del suo potere di applicazione. Qui oggi questo concetto, quest'idea, questa il solo parlare di una politica giudiziaria del giudice crea ovviamente una serie, pone ovviamente una serie di grossissimi problemi. Problemi che concernono, che partono già dalla legittimità della politica giudiziaria, una politica cioè fatta dal giudice. Si tratta di problemi che coinvolgono il rispetto del principio di legalità, del principio della separazione dei poteri, del principio di eguaglianza, del principio di una competenza tecnica dell'organo giudicante che si dice, si sottolinea, non essere qualificato per compiere scelte di politica penale. Direi però che, a parte questi problemi colossali in cui viene coinvolta il tema della politica giudiziaria, un dato è certo, che mentre fino al 1974, grosso modo, si ha un rapporto di persistente e consolidata antinomia tra le scelte politiche espresse nel codice Rocco, e la politica giudiziaria, si ha una persistente antinomia, poiché l'esercizio del potere discrezionale del giudice è uniformemente, costantemente, univocamente orientato a attenuare l'asprezza sanzionatoria del codice Rocco, che gli derivava dalla sua adesione all'idea intimidativa. Mentre tutto ciò fino al 1974, mentre quindi c'è fino al 74 questo rapporto di antitesi, di antinomia, dopo il 74 il legislatore opera un intervento legislativo col quale si assiste ad una sorta di istituzionalizzazione della politica giudiziaria. Cioè il legislatore non solo prende atto dell'attività di politica giudiziaria svolta dalla magistratura, ma la istituzionalizza, crea una serie di norme che non sono il riconoscimento di, non il riconoscimento, direi di più, l'attribuzione in definitiva di un potere tale che non può non coinvolgere scelte di carattere politico. Una serie di istituti concernenti sia la struttura dell'illecito sia il momento sanzionatorio sono costruiti in modo tale da costringere il giudice ad effettuare scelte di natura politica. Il problema della politica giudiziaria direi che rimane a tutt'oggi, un problema attualissimo peraltro, tutt'oggi aperto. Forse non è nemmeno possibile tracciare per la politica giudiziaria di gestione delle misure penali un tentativo di bilancio, così come invece è risultato possibile per la politica legislativa di gestione di queste misure. In conclusione, le linee di tendenza nella attuale politica delle misure penali paiono per così dire guidate da due imponenti fenomeni. Da un lato la crisi della pena detentiva, dall'altro l'incremento quantitativo e qualitativo della delinquenza. Per quanto riguarda il primo fenomeno, la crisi, peraltro torno a dire perenne, della pena detentiva, ha avuto le sue più recenti manifestazioni sia sul piano ideologico e scientifico, con la diffusione degli studi di carattere sociologico. Sul piano legislativo, con le riforme del 1974-75, con una sorta di fuga dalla sanzione detentiva. Le riforme del 74-75 hanno facilitato, incrementato questo processo di fuga dalla sanzione detentiva. Sul piano giudiziario, la crisi della pena detentiva si è manifestato con una accentuata tendenza dei giudici verso l'indulgenzialismo. D'altra parte, però, a questa crisi della pena detentiva, l'idea rieducativa che si è posta come contraltare, in un primo momento anche come accompagnata da una speranza, da una fiducia e in alcuni paesi anche da uno straordinario impiego di mezzi, d'altra parte però l'idea rieducativa che sembrava poter colmare i vuoti apertisi con la crisi della pena detentiva, ha in parte deluso. Sul piano operativo, il trattamento penitenziario, la rieducazione in istituzione penitenziaria, è apparso una vera e propria contraddizione in termini. D'altro lato, i frutti migliori della riforma penitenziaria, che appare ispirata a questa idea rieducativa, e cioè gli istituti del trattamento in libertà o semilibertà, si sono scontrati, queste innovazioni che sembravano destinate a un avvenire migliore, con la povertà dei mezzi a disposizione e soprattutto con i crescenti fenomeni di criminalità ad alta pericolosità. La nuova criminalità, con quei caratteri generali cui ho fatto riferimento all'inizio, ha contribuito sicuramente al parziale tramonto dell'idea rieducativa e ad un rilancio della funzione di prevenzione generale della pena. Sul piano legislativo, questa tendenza in Italia si è manifestata con la riaffermata istanza general preventiva. Si è avuta la riaffermazione dell'istanza general preventiva, che si è tradotta e continuerà probabilmente ancora a tradursi in sanzioni estremamente elevate, talvolta potremmo dire terroristiche, mentre tutto sommato non sembrano particolarmente intensi, quantomeno di esito felice, gli sforzi destinati a inventare misure alternative che pur si mantengano nell'alveo della funzione di prevenzione generale. La morale di questa favola è quindi che probabilmente le tendenze di politica legislativa presenti in Italia in questi anni, e direi in questi ultimissimi anni, e ancora vitali allo stadio di progetto, sono tendenze che determinano una forte crisi nel sistema e introducono dei forti motivi di tensione. È difficile dire se questi motivi di tensione saranno destinati a rimanere, ad accentuarsi, avviando il sistema verso una trasformazione di carattere ovviamente involutiva. La risposta probabilmente è nel non tanto nelle tendenze, ovviamente nell'esame, nell'analisi delle tendenze legislative. Queste tendenze legislative, secondo alcuni, orientate verso un imbarbarimento del diritto penale, sono tendenze che rispecchiano in buona parte un imbarbarimento dei nostri tempi, della nostra società.